Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City, parliamo di una startup, stasera si chiama Medere e si è appena aggiudicata il primo premio di BioApper, una competizione dedicata appunto alle startup che propongono nuove soluzioni in ambito medico ma con un forte contenuto anche di innovazione digitale. Questa competizione è sostenuta da Careplo Factory, Novartis e IBM e prevede un percorso di accompagnamento e di consulenza che è piuttosto significativo. Medere ha sviluppato un processo di produzione per plantari personalizzati, quindi realizzati su misura in base alle esigenze di chi li deve indossare. Ecco, i plantari, sapete, sono quelli che si mettono dentro le scarpe. La caratteristica saliente è che il processo, diciamo, di acquisizione dei dati relativi alle caratteristiche geometriche del piede avviene per mezzo di un'app da parte dell'utente stesso. Poi a partire da questi dati il plantare viene realizzato mediante stampa 3D. Ne parliamo con Marco Mannisi, Chief Product Officer di Medere. Buonasera Marco, benvenuto. Buonasera Maurizio, grazie mille. Beh, intanto complimenti per questa vittoria, perché è una competizione a cui credo abbiano partecipato inizialmente qualche centinaio di startup, poi voi siete tre, se non sbaglio, giovani ingegneri. Allora, come avviene per cominciare l'acquisizione dei dati? Dicevamo che è self-made da parte dell'utente. Sì, questo è forse il primo punto di innovazione a cui ci siamo indirizzati quando abbiamo avuto quest'idea. E quindi abbiamo sviluppato quest'app che permette a qualsiasi persona da qualsiasi parte volendo del mondo di comodamente seguire una guida, quindi ci sono dei video che spiegano passo passo tutto quello che bisogna fare e alla fine di questi video tutorial viene chiesto al cliente di eseguire dei video e delle fotografie dei propri piedi. Questo viene fatto utilizzando dei riferimenti geometrici molto comuni, quindi un semplice foglio A4 è sufficiente affinché noi si possa poi tarare, ovviamente, diciamo, le dimensioni, certo, corrette. E a partire da quel punto siamo in grado di generare un modello digitale molto accurato dei piedi di qualsiasi cliente, ecco. E poi da lì partite appunto per stampare la scocca, diciamo, del plantare con la stampa 3D, e poi ci sono i vari strati, no? Quelli che conosciamo per il sudore, per queste cose, sì, sì, per queste cose qua. Corretto, noi modelliamo in maniera parametrica in ambiente digitale, quindi al computer, in CAD modeling, e dopo aver modellato il plantare possiamo decidere ovviamente tutte le parti, diciamo, salienti, le differenti zone anatomiche, utilizzare dei riempimenti differenti con la stampa 3D, e questo ci dà una forte versatilità, quindi possiamo coprire tutte le esigenze in più differenti modi. Ecco, quali sono? Io penso anche solo al barista che sta in piedi tutto il giorno, no? Corretto, il nostro prodotto può andare sia per il benessere, per il comfort quotidiano, quindi di chi lavora tante ore in piedi o chi soffre di magari talloniti o dolore a fine giornata ai piedi, affaticamento, però anche per chi svolge attività sportiva. Infatti abbiamo sia una linea sportiva generica, ma anche in uscita a breve rilanceremo delle linee sportive specifiche, quindi per chi pratica sport, perché ha delle sollecitazioni differenti nel calcio piuttosto che nella pallavolo, per capirsi, nel padel, certo, nel tennis. Però una forte applicazione a cui noi aspiriamo è anche, diciamo, un plantare correttivo, quindi andare a creare quello che è una correzione dove è necessario, ma penso, così per dare due suggerimenti, a patologie come il piede piatto, un valgismo, oppure pronazione o supinazione eccessiva non fisiologica. Quindi diciamo che le applicazioni sono numerevoli. Ecco, state anche sviluppando una versione sensorizzata di queste solette o plantari a secondo dei casi. Ecco, come e perché? Allora, questo è il processo, diciamo, è la fase successiva del nostro progetto. Andremo a inserire dei sensori di pressione ed inerziali per poter registrare appunto variazioni nella deambulazione, capire le attività svolte, i tempi di riposo di attività di ogni persona. E questa idea ci è venuta all'interno del contest BioApp che ci ha supportato, e anche qui le applicazioni sono mutevoli, perché si possono utilizzare in ambito patologico per andare ad avere un follow-up longitudinale, quindi un telemonitoraggio del paziente a casa, sia per studiare la bontà del plantare su misura che si è disegnato e si è realizzato, sia per andare a registrare quegli eventi che possono altrimenti andare persi, ma essere fondamentali per dare al medico per aiutare il medico nel processo decisionale. Sono degli eventi acuti, no? Che si possono verificare in alcune patologie, che possono essere persi con un monitoraggio che invece è ogni qualche mese. Ma poi si può anche vedere uno sportivo, no? Per esempio, come usa i piedi, lasciami dire così, in modo un po' brutale. Sì, è corretto. Si può andare a studiare sia casi acuti in patologie, sia nell'ambito sportivo, andare a studiare le performance e come migliorarle. Tra l'altro vi siete inventati, diciamo, un modo originale per ricaricare queste solette sensorizzate. Sì, abbiamo pensato, perché uno dei limiti delle solette sensorizzate che oggi si trovano sul mercato è quello di scaricarsi dopo poche ore ed essere utilizzabili quindi solo in laboratorio. Noi abbiamo quindi pensato di utilizzare durante l'attività quotidiana semplicemente il device come memorizzazione dei dati, quindi non vengono trasmessi, e poi in fase di inutilizzo, quando le scarpe vengono rimosse e poggiate su una base da noi sviluppata, verranno sia ricaricate e nel contempo avverrà la trasmissione e l'elaborazione dei dati, così che il medico possa accedervi da qualsiasi computer connesso alla rete. A che punto siete di questo processo? Ci sono appunto tante cose che bollono in pentola, alcune pronte, alcune ancora no. Sì, noi siamo già attivi sul mercato, quindi offriamo ai nostri clienti la possibilità di scaricare gratuitamente la nostra app e da lì seguire tutte le procedure per ordinare le solette su misura, sia per l'attività sportiva che per il benessere quotidiano. In futuro vorremmo arrivare a ottenere le certificazioni necessarie a vendere il nostro prodotto come plantare ortopedico correttivo. In quel caso, ovviamente, oltre alle informazioni dell'app, serviranno a corredo le informazioni date dal medico, quindi la prescrizione del medico, che è fondamentale per un prodotto correttivo. E sempre nel futuro, appunto, porteremo avanti questo progetto dei plantari sensorizzati per avere anche questo nuovo prodotto da lanciare, speriamo, entro alla fine del 2021. Grazie allora, grazie Marco Mannisi, e avanti così. Grazie mille, grazie a voi per questa opportunità. Bene, cari ascoltatori, abbiamo concluso anche per oggi, appuntamento a domani. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.